Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti e a tutti i nostri radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di un argomento molto particolare che è la cultura del vino. Ebbene, questo termine cultura ultimamente è apparso alla ribalta nel mondo del vino, se ne parla sempre di più, così all'improvviso è emerso. Allora, quali sono i motivi per cui è emerso? Perché ci sono dati forse un po' preoccupanti sui giovani e il vino e anche gli alcolici, soprattutto gli alcolici, però il vino in questo caso c'entra ben poco. Ma noi oggi cercheremo di capire innanzitutto cos'è la cultura del vino. La cultura del vino cos'è? Saper distinguere il profumo di rose in un vino rosé, oppure, non lo so, lo zafferano in un vino bianco, oppure saper distinguere il sapore di tappo o via di questo seguito, così andando un po' a ricercare questi sapori e questi profumi che molte volte vengono buttati sulle discussioni in maniera mnemonica, oppure rileggendo la controetichetta dei vini. È cultura questa, ma cominciamo a parlarne e a discuterne con Franco Maria Ricci, che è presidente mondiale di una delle due associazioni dei sommelier, ma è anche animatore da anni di Bibenda e dell'AIS di Roma. Perché? Perché l'associazione italiana sommelier a maggio varrà una giornata sulla cultura del vino, quindi andremo a scoprire perché questa necessità. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, quindi i nostri radioascoltatori possono intervenire come e quando vogliono su questo argomento. Buongiorno Ricci. Buongiorno a voi ragazzi. Allora, perché l'AIS? Perché da tanti anni credo che AIS si sta arrabbiando, usando un termine radiofonico, perché non si riesce a far entrare il concetto di cultura nel vino, perché c'è la paura, soprattutto nei media, no? C'è paura di parlare di vino. Pensate che nei libri... C'è qualche rumore sul tuo telefono, forse sei in movimento. Non sono fermissimo. Ecco, prego. Perfetto, quindi dicevo, in televisione i libri si vedono con la copertina, con l'autore. Pensa che l'altra anno, una mattina, ho visto anche un parrucchiere di Capri con il suo telefono. Ecco, appena si presenta un vino si mette subito la pecetta sull'autore di questo grande capolavoro e si mette la pecetta sul nome del vino. Quindi c'è proprio la paura di parlare di vino, e da tanti anni noi stiamo parlando anche con il garante della pubblicità, ci stiamo cercando di arrabbiarci. Ecco, forse questo, Davide, questo arrabbiamento, questo documento che stiamo facendo al prodotto più importante italiano, più importante del Made in Italy, forse questo arrabbiamento sta avendo i suoi frutti. Ecco perché si parla di cultura del vino, credo. Poi, altro a dire che cos'è la cultura del vino, quindi giustamente tu dicevi che cos'è la cultura del vino, ecco, parliamone. Ecco, cioè, volevo appunto arrivare a questo, nel senso che cultura del vino è vedere cosa c'è oltre il vino nel bicchiere, quindi come si produce, la storia dei territori, la tradizione, i vitigni, ma anche la storia degli uomini che producono il vino. È questa la cultura? Ma a me basterebbe il numero 53 milioni di italiani che non conoscono il vino sapere che cos'è. Da questo già basterebbe, perché ci sono 7 milioni di italiani, di persone che abitano in Italia, che conoscono bene il vino, che sanno che cos'è, che sanno berlo, che sanno identificare la qualità, che conoscono le varie etichette del mondo e che sanno soprattutto smettere quando si deve smettere, perché solo la cultura fa smettere quando si deve smettere. Quindi è meglio bere bellissimo, dico anche, ma bere poco. Questo è, ci sono 53 milioni di persone che non sanno che cos'è, quindi questo è, partiamo da questa ignoranza per arrivare a dire che basterebbe per l'Associazione Italiana Sommelier che il vino si conoscesse in quanto qualità del prodotto, quindi in quanto prezzo del prodotto. Noi non sappiamo quanto costa il cappuccino, perché la mattina prendiamo un cappuccino a mezzo euro, un euro, quello che è, eppure il cappuccino è ricaricato 19 volte il valore e noi non glielo diamo, siamo abituati ormai a dare questo euro al cappuccino, perché è giusto che sia così. Il vino no, non c'è la cultura del sapere quanto deve costare un prodotto di vino, per non parlare dell'olio. Massimo da Roma, Massimo, lei nei 53 o nei 7 milioni, sa di vino? Ma un pochino, perché saluto Ricci, perché io ho avuto la fortuna quest'anno di prendere il diploma come sommelier e lo ringrazio perché comunque mi si è aperto un mondo. Bene, mi dica il suo, prego. La mia impressione è questa, io sono stato anche in Francia, sono stato nella zona praticamente di Bordeaux, Borgogna, e quindi diciamo ho avuto modo di approfondire la cultura del vino francese e posso dire che c'è un abisso tra quello che è la cultura francese del vino e quello che è presente in Italia. Basti soltanto un esempio, questo è una cosa che dice sempre Ricci anche quando andiamo ai corsi, credo che nell'istituto alberghiero le ore che vengono fatte per il vino sono veramente irrisorie rispetto diciamo alla Francia. Quindi posso dire che in Italia c'è una cultura del vino veramente, veramente, veramente bassa. Bene. Quindi questa è la mia impressione. Grazie, grazie Massimo. Sentiamo Gianni da Bolzano. Buongiorno Gianni. Sì, buongiorno. Voglio portare la mia esperienza per quello che riguarda la cultura sul vino. Noi sono circa 6 anni che andiamo con dei bambini, un gruppo di bambini e genitori, in una cantina che dopo se vorrà, le dico anche il nome, giù nel Trentino, che ci mette a disposizione un paio di filari e i bambini possono sperimentare prima di tutto appunto il distacco dell'uva, poi la pigiatura perché la facciamo ancora con i piedi e dopo 2 anni torniamo anche ad assaggiare il vino, quindi questo rapporto culturale con il vino che non diventa solo un bere per bere ma si conosce tutto il procedimento che c'è prima. Grazie, grazie Gianni di questa che ci ha raccontato questa esperienza. Allora, c'ho altri radioascoltatori, rimanete in linea e ora ho anche un ospite. Buongiorno Paolo Benvenuti, che è direttore dell'Associazione Nazionale Città del Vino, un filosofo prestato al vino. Bene Paolo, buongiorno, allora, Davide. Buongiorno. Buongiorno Davide a te e ai tuoi ascoltatori. Paolo, ma esiste, cioè c'è una cultura diffusa del vino oppure veramente siamo carenti in questo paese? Ma per la mia impressione è che la cultura del vino in Italia sia cresciuta molto in questi ultimi anni e sia stata anche l'elemento importante che ha dato diciamo una svolta ecco, al settore, al mondo del vino nel suo complesso. Ho sentito un radioascoltatore che metteva in relazione la nostra cultura rispetto a quella francese diciamo risulterebbe maggiore. Però se noi analizziamo ecco, questi ultimi 10 anni, 20 anni diciamo così, possiamo anche rendersi conto di come sia notevolmente aumentata. Ecco, io ritengo che questo sia quell'elemento importante che possa anche per il futuro dare una svolta. Ecco, da questo punto di vista io vorrei dire diciamo che mi ha fatto molto così piacere diciamo leggere una definizione di Dumas che nel suo libro diciamo uscito postumo sulla gastronomia nel capitolo che è dedicato al vino dice appunto che nel pranzo il vino rappresenta la parte intellettuale ed è effettivamente in questa maniera, perché se noi ci pensiamo bene diciamo il vino è quel momento della scelta che ci mette in relazione a un territorio, a tutta la certo, sua storia certo. e così via. Quindi ecco, è su questo tasto che noi bisogna battere, perché credo ecco, diciamo, che tanti elementi che nella società oggi diciamo sono un po' avversari ecco, del vino e degli alcolici in generale, ecco, questo tasto invece è quello che in qualche maniera supera ecco, diciamo, anche questi. Grazie Paolo, rimani con noi, sentiamo un radioascoltatore, Franco dalla provincia di Como. Buongiorno Franco. Sì, buongiorno. Senti, io più che altro avevo una curiosità che in passato avrei voluto rivolgere riguardo il mondo del vino, visto che qua la vostra bellissima trasmissione se ne parla spesso. E mi chiedo questo, io sono un neofito, diciamo, sto cercando negli ultimi anni di avvicinarmi diciamo in maniera un po', come si dice... da solo insomma e mi capita spesso di leggere per quanto riguarda la conservazione soprattutto, no? Il fatto che il vino andrebbe tenuto in posti bui possibilmente, più silenziosi possibili, senza vibrazioni eccetera, mentre invece tanto spesso mi capita di andare anche in enoteche magari importanti dove il vino viene magari conservato in bottiglie in verticale in spazi magari anche retroilluminati o sovrilluminati bisogna comprare quelle bottiglie. Volevo sapere se forse non era il caso di spingere per la conservazione del vino per l'acquisto nelle cantine diciamo. Bene. Che non potrebbero tenere il vino nella cantina, io scelgo la bottiglia sopra diciamo nel negozio sì, certo. mi viene portata va bene. Da un luogo diciamo idoneo alla conservazione. Vabbè, non tutti, però non tutti i negozi, specialmente in città, possono avere le cantine. Poi questo discorso di verticale e orizzontale, diciamo che è una diatriba che dura da tanto tempo. Certo che il vino bisogna conservare in luoghi con una certa temperatura, fuori dalla luce ed altro. C'è chi non lo fa, purtroppo, e questo secondo me è un grossissimo problema. Comunque il numero verde è 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Ora volevo introdurre un famoso winemaker, enologo, perché tutti dicono ovviamente di non usare le parole in inglese, usiamo appunto una parola in italiano, l'enologo, che è Roberto Cipresso. Buongiorno Roberto. Buongiorno Davide. Ecco, Roberto lo faccio intervenire perché, oltre ad essere un grandissimo enologo che gira il mondo, quindi diciamo che ha clienti un po' in quasi tutti i paesi vinicoli importanti, ha scritto due romanzi, cioè si è esercitato molto, diciamo, anche nella scrittura, raccontando il vino non in maniera tradizionale. Allora io ti chiedo, Roberto, questo tuo modo, per esempio nel vino Sofia, oppure nel romanzo del vino, ecco, serve scrivere in questa maniera e raccontare in maniera semplice, introducendo altri elementi che non sono la solita, diciamo, scheda organolettica del vino, a far conoscere il vino? Ma guarda, assolutamente sì, cioè bisogna tornare un po' indietro, bisogna rivedere un po' i passaggi, diciamo, passati della comunicazione. Cioè la novità sta nel comunicare facile, creando suggestione, creando, come dire, contorno a quello che è un elemento che può essere anche raccontato in modo molto tecnico, molto preciso, analitico. Però se si vuole avvicinare il consumatore bisogna riuscire a creare la suggestione che serve. Guarda, io è da un po' di anni che, come sai, che faccio vino un po' in diverse parti del mondo, e adesso ho un po' un capriccio che da un po' di tempo inseguo, che è quello di cercare l'archeologia della viticoltura. Viaggio in Armenia, in Azerbaijan, in Georgia, che è una delle città più delle aree più belle per la ricerca di queste viti antiche. E anche in Italia abbiamo delle cose fantastiche, sto seguendo un progetto a Venezia che recupera la Dorona, che è questa varietà recuperata in questi orti vicino a Burano, nell'isola di Mazorbo, sto seguendo nei campi Fregrei il recupero di alcune falanghine antiche, ho trovato un'uva che non si sa bene che cosa sia, nelle vecchie terrazze che circondano i ruderi dell'antica villa di Cesare tra Bacoli e Baia. Cioè, mi sta diventando una passione, una malattia quasi, diciamo. Ed è questo il modo bello di far vino, anche non soltanto fare vino per poterlo poi bere, ma anche perché il vino possa raccontare un momento storico, possa essere il mezzo per tornare in quel momento storico, cioè come una sorta di chiave, di password per poter passare a una dimensione storica diversa, ed è fantastico. Quindi il vino è come vedere l'evoluzione della storia, insomma, mi sembra di capire. E credo che questo sia un fatto culturale molto importante. Rimani con noi, Roberto. Sentiamo Guido da Torino, un radioascoltatore. Pronto? Sì, prego, Guido. No, volevo dire che, a parte la cultura del vino, dovrebbero già iniziarla nelle scuole elementari, insegnare, ma è la cultura alimentare che manca in Italia. La gente consuma brutalmente, non sa neanche leggere gli ingredienti di quello che compra, e molte volte questi ingredienti sulle confezioni sono anche messi in una maniera per favorire determinate lobby, non spiegando veramente qual è l'ingrediente, mettendo delle voci generiche. Una tipica, adesso non c'entra col vino, è quello, per esempio, lei prenda per esempio prodotti magari di cioccolato, grassi vegetali, ma grassi vegetali è tutto, anche il cacao è grasso vegetale, anche l'olio d'oliva è un grasso vegetale, ma dietro quella parola si nascondono tutti i grassi più biechi, il grasso di cocco, quello di palma e tutte queste cose qui, ma è già lì che manca. Noi tutti i giorni apriamo la bocca e mangiamo e non sappiamo cosa mandiamo giù, né nel bere né nel mangiare. Grazie Guido di questo suo intervento. Sicuramente la cultura alimentare forse ancora più importante, sicuramente, perché magari non tutti bevono vino e non tutti i giorni si beve vino, mentre i grassi, diciamo, che si mangiano dentro a dei cibi tutti i giorni. È verissimo questo. Roberto Cipresso, volevo chiederti, secondo te se arriverà il momento in cui leggeremo la storia attraverso il vino? Ma già lo stiamo facendo un po', cioè ti faccio un esempio curioso, ma la falanghina, il nome storico di falanghina è phalanx, che vuol dire falange romana, e se tu assaggi la falanghina sapendo questa cosa qui e sapendo che la falange romana beveva, ingurgitava una falanghina che è molto diversa da quella che beviamo oggi, che ci riporta i frutti di mare, che ci fa vedere i faraglioni, i tramonti sul Tirreno, era un vino impossibile, indecente, era un vino acetoso che veniva mescolato con il miele o con degli sciroppi di frutta, perché era impossibile da bere, era sgradevole, ma serviva per affrontare l'orda nella decadenza dell'impero romano, l'orda barbara che stava invadendo Roma. E quindi con lo stesso approccio che aveva la cocaina con il Vietnam, per dire, nell'antica Roma, quando adesso assaggi una falanghina e conosci questa storia, entri un po' nell'intimità di quel momento storico lì, insomma la falanghina ha un altro sapore, non è soltanto, come dicevamo, sai, un po' di iodio, un profumo così di floreale, eccetera, ed è un mezzo per poter entrare in quel momento storico lì, come dicevo. L'ultimo libro che ho scritto, che si chiama Vineide, lascio uno spazio che dedico a Marco Polo, perché c'è un giornalista improbabile che chiede a tutti gli uomini della storia, da Giulio Cesare a Marilyn Monroe, un giornalista improbabile che vive 2000 anni, quale fosse il segreto del vino. E nell'interrogare Marco Polo racconta il viaggio, il segreto del vino, perché il vino è un viaggio. E allora è l'occasione per me per parlare di questo progetto veneziano della famiglia Bisol, che si chiama Venissa, dove recuperiamo questa varietà che è la Dorona, da cui letteratura è presente dal 1500, e che racconta un'altra Venezia. Cioè tu assaggi questo vino, ci sarà un vino che costa meno e che è più buono, però assaggiare quel vino in quel posto, allora lì... Perfetto. E sarebbe bello aprire una parentesi sul concetto di genius loci, no? Sentiamo appunto un radioascoltatore, Marco da Milano. Buongiorno Marco. Ah sì, buongiorno. Volevo intervenire perché volevo portarvi una mia esperienza nel mio piccolo, diciamo. Io faccio il libero professionista e diciamo regalo spesso ad alcuni clienti, in particolare del vino, no? Solo che molti ovviamente regalano vino, non è mica un'idea originale, solo che io vado proprio nelle cantine di un certo tipo a cercare dell'alta qualità, diciamo, di vino. Per esempio ho imparato che ogni cantina ha i suoi appunto prodotti di punta e quelli un po' così più commerciali, e anche ogni vitigno, eccetera eccetera, stesso discorso insomma. E niente, ho notato che regalandolo le persone a cui lo regalo dopo un po' mi fanno: ehi, ma sai che però il tuo vino era veramente buono, era diverso dagli altri, nel senso era proprio buono. E loro sono contente, no, di questa cosa. E poi anche loro a loro volta iniziano a pensare: ah, ma allora aspetta, adesso guardo anch'io, nel senso che, cioè, attraverso questo sistema ho notato che anche loro si interessano alla cosa. Bene, capito? Grazie del Marco, grazie di questo suo intervento. Ora abbiamo con noi un musicologo che è autore anche di una guida dei vini naturali, ed è Giovanni Bietti. Buongiorno Bietti. Buongiorno, buongiorno Davide. Volevo chiederti, ma la tua cultura musicale, ecco, sì, è servita a qualcosa? Serve alla tua cultura vinicola o viceversa? Sì, diciamo che è curioso, ma tutte e due si rafforzano a vicenda, per una ragione che ci ho messo un po' di tempo a capire, ma adesso mi sembra abbastanza chiara, perché in realtà sia il vino che la musica vivono nella memoria, cioè vengono consumati, la musica viene eseguita, il vino viene bevuto, e poi per continuare a sopravvivere si costruiscono uno spazio che è una sorta di spazio sospeso fra il passato e il presente, cioè non c'è nulla che come il vino sia capace di evocarci memorie, legarci ad un luogo, a una persona, a una situazione, a una serata, no? Ecco, la musica ha una caratteristica, un potere simile. Questo è un aspetto che io trovo leghi fortemente questi due ambiti. Bene, grazie, rimani con noi. No, stavo riflettendo e stavo così pensando che sono già uscite tre cose importanti: vino conoscenza, vino viaggio, vino memoria. Quindi sicuramente sono fattori che portano direttamente alla cultura, ma forse ne abbiamo anche un altro. Abbiamo con noi Marco Pallanti è Castello di Ama, un enologo nonché in questo momento anche presidente del consorzio Chianti Classico. Ma a lui voglio chiedere, è un grande appassionato di arte contemporanea, tant'è vero che questa azienda è ricca dei più grandi nomi appunto di arte contemporanea. Ecco, voglio dire, l'arte con il vino, ma che ci azzecca, direbbe qualcuno? Ciao Davide. No, Beh, chi ci azzecca? Devo dire che davanti a un'opera di arte contemporanea ci si può porre come davanti a un bicchiere di vino, cioè si può considerarla, come dicevo, un'opera aperta e quindi stare ad ascoltare quello che l'opera ci racconta, quello che il bicchiere ci dice, quindi si può parlare della storia, della cultura del luogo, di un pezzo di terra, di un sacco di cose, oppure mettersi lì davanti al bicchiere e tracannarlo come davanti all'opera e dire ma guarda questa, la potevo fare anch'io. E quindi questo sono due modi di porsi identici, direi proprio. Tu dici queste sono le due reazioni che si hanno sia di fronte a un'opera d'arte che di fronte a un bicchiere di vino. Credo che tu ci vai molto ma molto vicino. Comunque anche tu rimani con noi perché questa prima così risposta è veramente molto interessante. Sentiamo Paolo, un radioascoltatore, provincia Monza Brianza. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno Paolini. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Diciamo che sentire la vostra trasmissione è come mettersi davanti a un buon bicchiere di vino. Le faccio tanti complimenti. Grazie. Allora, io faccio tutt'altro nella vita. Diciamo che di vino non ci capisco poco, però mi è sempre piaciuto bere bene. E per bere bene ho sempre avuto grosse difficoltà, se non con dei prezzi esorbitanti, secondo me. Io in questi ultimi 2 anni, insieme a un amico che ha il padre pugliese, che ha sempre fatto vino, siamo andati in Piemonte, abbiamo cercato un posto dove ci vendessero dell'uva, logicamente portando il padre perché noi non ci capivamo assolutamente nulla, abbiamo trovato un produttore d'uva, prendiamo l'uva. Insomma, siete arrivati alla produzione, mi sembra di capire. Siamo arrivati alla produzione, sì. Logicamente questo lo fa questo signore anziano che noi non ci capiamo assolutamente nulla. Guardi, io riesco a produrre un dolcetto fantastico al costo di... Guardi, un euro. Senta Paolo, lei vuole discutere sul prezzo dei vini o vuole discutere che lei così ha visto la filiera, diciamo, del vino e quindi ha capito come si ottiene un vino? No, io l'ho fatto innanzitutto per ottenere un vino, non l'ho fatto innanzitutto per... però si riesce ad ottenere un ottimo vino a Bene. Dei costi molto bassi. Io, guardi, io vado a ricercare tutte queste cose un po' particolari. Sì. Le volevo dire anche un'altra cosa. Le consiglio, se è possibile, un formaggio che ultimamente ha ottenuto un DOP. So che vado fuori. Dai, andiamo fuori, Paolo. Abbiamo tanti radioascoltatori. Grazie. Lei all'insegna del fai da te per ridurre i prezzi. Bene, anche questa può essere una strada. Io voglio tornare a Bieti e voglio chiedere una risposta rapida su questo. Bieti, cosa si può fare per crescere la cultura del vino in questo paese? Secondo me serve un po' meno marketing. Io vedo come problema nella cultura vinicola il fatto che si sia tentato di renderlo un prodotto esoterico, no? Cioè un prodotto che c'è bisogno di spiegare perché non siamo in grado di capirlo, cercando l'alta qualità. Invece non dovremmo dimenticare che è un prodotto alimentare, essenzialmente. Cioè io non sono tanto d'accordo con chi dice che il vino ha questa artisticità forte, o comunque sono soltanto alcuni vini quelli che hanno, diciamo, una storia più illustre. Io credo che si debba recuperare un consumo veramente di base, di vini sani, freschi, bevibili, che si accompagnano al cibo, anche perché effettivamente si sta bevendo sempre di meno e la crisi comincia a essere molto pesante, c'è moltissimo invenduto. E a proposito di prezzi, i prezzi delle uve, ha parlato del Piemonte il signore, bene, ultimamente il dolcetto nell'ultima vendemmia si vendeva a 30 centesimi al chilo, addirittura al litro, sfuso. Un agricoltore non ce la può fare in questo modo, bisogna ricominciare a bere, dimenticarsi un po' di questo esoterismo, di questa, diciamo, immagine glamour del vino e recuperare invece il piacere di berlo insieme a un bel piatto. Bene, grazie a Giovanni Bieti. Allora Roberto Cipresso, ti do un minuto per spiegarci il Genius Loci. Un minuto è poco, però il concetto è che se tu assaggi un Brunello di Montalcino a Montalcino in un castello medievale, il Brunello sarà più buono. Questo è il concetto. Diceva Bernard Russell, quando ha scoperto che l'albicocca era un prodotto cinese che poi è arrivato in Persia, che poi i romani hanno portato a Roma e con l'espansione dell'impero romano è arrivata in tutta Europa, dice: ogni volta che assaggio questa albicocca mi sembra più dolce. Evidentemente questo è il concetto. Quindi vuoi dire c'è l'ambiente, cioè che l'ambiente gioca, l'ambiente... Cioè, soprattutto il terroir che appartiene ai vini superiori, sì, quelli che raccontano di sé nella profondità, e il suo contorno, il suo paesaggio di contorno fanno sì che uno più uno possa fare tre. Questo è un po' il concetto. Grazie a Roberto Cipresso. Allora, Marco Ballanti, l'abbiamo ripescato. Marco, cosa si può fare per far crescere la cultura del vino in questo paese? Beh, sicuramente si può far venire le persone nelle zone di vino per capire un po' di che cosa stiamo parlando, perché sicuramente, come ha detto qualcuno prima, bere un bicchiere di vino e fare un viaggio, e niente meglio che ricordare il viaggio essendoci stati. Io credo che questo sia un po' fondamentale. Dopodiché la cultura del vino si fa anche attraverso delle degustazioni, ma voglio dire, bisogna impostare la degustazione non da un punto di vista strettamente enogastronomico e tecnico, ma da un punto di vista culturale. Cioè, secondo me è solo il lato culturale che giustifica l'alcol nel vino. È questo il ruolo fondamentale che ha il vino nella nostra cultura, insomma. Bene, grazie a Marco Ballanti, grazie, a presto. Sentiamo Diana da Ravenna, una radioascoltatrice. Buongiorno Diana. Paolo, a proposito di Genius Loci, no? Mi è venuto in mente, vorrei segnalare che per ora sono in Sicilia, che qua nascono un sacco di case vinicole nuove con tanta buona volontà, anche cercando i vecchi vitigni e tutto, però arrivato al momento di metterlo sul mercato saltano fuori questi singolari nomi arabi. Nandir, Zen, vabbè, ma dico, è antistorico da morire, no? Dico, il vino con cultura araba. La cultura araba non ce l'ha il vino, ma ce l'hanno i luoghi. Lei ha parlato di Genius Loci, quindi. No, non i luoghi, perché gli mettono nome Nandir, Zenit, proprio hanno questa nostalgia del, e comunque. Beh, non è una nostalgia, credo che c'è sempre qualche liaison che li porta a sicuramente comunque, dare questa. Comunque, in contraltare ho visto in Puglia una piccola casa vinicola che nell'etichetta cita un verso del libro settimo dell'Odissea, quando Ulisse, ospite dei Feaci, vede che c'è una vigna feconda piantata e questa è aperta in aperto terreno, matura al sole. Questo è molto bello. Bene, molti sms, alcuni anche divertenti, perché c'è un vignaiolo che dice: la musica serve a chi lavora in vigna, forse riferendosi al musicologo che abbiamo appena sentito. Altri parlano di Side Away, il famoso film americano su quel viaggio in Napa Valley, viaggio romanzo di formazione della cultura vinicola. Appunto, della cultura vinicola io non sono molto d'accordo, anzi direi di non cultura vinicola, chiusa la parentesi. Comunque, detto questo, io ora ho con me un ospite che è Andrea Muccioli della comunità di San Patrignano, e ad Andrea in modo molto diretto voglio chiedere: al Vinitaly lo spazio dei vini di San Patrignano era così, colpiva perché c'era sopra lo stand una macchina dopo un incidente accartocciata. Allora voglio chiedere a Andrea, questo era un messaggio per fare cultura del vino? Era un messaggio per ricordare a tutti, in particolare ai produttori, che chi è il depositario e custode della grande cultura del vino italiano ha la responsabilità in più di trasmettere questa cultura a tutti, e in particolare ai giovani. Se consideriamo che 800.000 ragazzi tra i 15 e i 19 anni oggi bevono compulsivamente, cioè per sballare, alcol, anche vino. Quindi, questo volevamo dire. Allora guarda, abbiamo con noi un produttore di vino molto, diciamo, molto attento a quello che succede, ed è Ampelio Bucci. Buongiorno Bucci. Ciao Ampelio. Ciao. Allora, Ampelio, hai sentito Muccioli, e tu come produttore di vino condividi questo, diciamo, questo loro messaggio? Ma condivido in generale, però c'è una cosa da dire, e questo bisognerebbe dirla forte, io lo dico ai giornalisti che naturalmente non mi ascoltano, cioè il vino nella cultura nostra e in quella mediterranea è un elemento dell'alimentazione. Gli alcol da sballo sono altri. Ecco, allora per esempio cominciare a dividere, cioè è ben diverso, a parte che il vino è un alcol che si forma naturalmente, gli altri invece sono alcol costruiti. Però ecco, una divisione è, il 90% dei casi derivano dei casi drammatici, derivano dagli altri alcol. Io una volta ho discusso con una con una poliziotta molto importante di Milano, proprio davanti a una televisione locale, e lei aveva una statistica che però non mi ha lasciato, che erano gli incidenti piccoli o gravi divisi per orario. La maggior parte degli incidenti avveniva da mezzanotte alle due, allora è difficile dire che quelli vengano dall'alcol, gli altri erano dalle 10 a mezzanotte, anche questi è difficile dire che vengano dal vino, altri erano dalle 6 alle 8. Allora questo vuol dire che si deve fare, secondo me, una grossa distinzione fra il vino, che è un prodotto che, ripeto, da noi è un prodotto che va con l'alimentazione, e gli altri che sono invece proprio prodotti da sballo, e nelle altre culture forse anche il vino entra, forse entra anche da noi. Però questa divisione secondo me è importante. Bene, sentiamo Stefano dalla provincia di Reggio Emilia, un radioascoltatore. Buongiorno Stefano. Buongiorno, avrei tante curiosità, comunque provo a sintetizzare. E intanto la dicitura, vedo che è già qualche anno che c'è la dicitura su praticamente tutti i vini, chiedo a voi, ma io li ho visti praticamente su tutti i vini, di contiene solfiti. Sì. Visto che contiene solfiti, e lo contengono tutti, come metterci, contiene uva, cioè perché metterlo primo? Cioè, cos'è stato che ha fatto l'obbligatorietà di inserirlo? Un'altra cosa che chiedevo, quando parlate di prezzi, quando io sono nell'ambito della distribuzione, che ci sono rappresentanti anche di aziende importanti che vengono pagati il 15-20% di provvigione, diventa difficile pensare che un prezzo di un vino importante possa costare poco quando una sola voce incide il 15-20%. Se poi mettiamo che in ristorazione minimo viene raddoppiato, abbiamo già capito cosa può costare una bottiglia importante al ristorante. Un'altra cosa che io chiedevo, il mio stomaco ultimamente fa fatica a digerire i rossi e mi sono buttato sui bianchi, vedo che sto meglio, è il mio stomaco stupido o c'è un collegamento? Bene, io credo che questa ultima domanda debba essere rivolta a un medico e non a un enologo, a un produttore di vino. Per quanto riguarda i solfiti le rispondo io, il vino produce naturalmente una quantità di solfiti per cui è necessario per questa quantità metterlo addirittura in etichetta, quindi è già di per sé naturalmente e il solfito viene prodotto dal vino, quindi come lei capisce se c'è qualcuno che le aggiunge sicuramente si va al di là di quello che è la quantità naturale. Io volevo tornare, abbiamo un altro radioascoltatore, sentiamo Aldo dalla provincia di Padova. Buongiorno Aldo. Caro Davide, io volevo dire due cose in quanto io sono ristoratore e noi spetta il compito appunto di vendere il vino, che adesso c'è anche un problema di consumi. Io ho il ristorante Letizia a Due Carale. Senti una cosa, volevo solo dire una cosa brevissima, che va anche, non so, diciamo a... Diciamola breve allora. Sì, brevissimo. Noi ristoratori dobbiamo più che altro insegnare come bere il vino, cioè nel senso che bere meno, ma bere meglio, perché adesso la gente è terrorizzata da bere vino. Allora io ho detto ai miei collaboratori, quando entra il cliente a tavola, aspettate un attimo a portare il vino, magari che abbia già il cibo in tavola, in modo che possa bere, mangiando, bere meglio, vendere una bottiglia in meno, ma che il cliente stia bene. Bene, questo è quanto. Grazie Aldo. Torno a Andrea Muccioli. Andrea, chi dovrebbe fare cultura del vino in questo paese? Intanto permettimi di correggere un attimo i dati, purtroppo non è più così, purtroppo i giovani oggi sballano di alcol usando spessissimo anche il vino nel 49% dei casi, quindi è un problema, e rispondo alla tua domanda, di tutti coloro che sono nell'ambiente del vino, in particolare coloro che lo producono. Grazie Andrea. Ampelio, un minuto per dire chi deve fare cultura del vino in questo paese? Tutti, secondo me, il ristoratore di prima già sta facendo cultura, la stampa, secondo me, ripeto, dividendo i casi fra i diversi alcol, sarebbe cultura. Noi produttori, evidentemente, se riusciamo, come diceva Pallanti, a portare la gente in azienda, a fargli capire che il vino non è un prodotto che è lì nella bottiglia, c'è dietro tutta una storia faticosa, per cui poi sul prezzo del vino potremmo andare dentro, non possono essere quelli che sono stati detti. Ecco, ciascuno una parte di questa cultura, il vino è lui un prodotto culturale comunque, perché è un prodotto fatto dalla natura più l'uomo, quindi è un prodotto culturale del territorio, come ha detto qualche d'un altro. Ecco, se riusciamo a portare la gente nel territorio e spiegargli territorio vino, considerando che noi siamo in Italia, che è un vantaggio in questo senso, straordinario, perché noi siamo in questo momento il paese del bello e del buono. Grazie Ampelio Bucci. Bene, allora concludiamo questa trasmissione. Il vino sì è cultura, però bisogna vedere chi ha la consapevolezza che il vino è tale, quindi bisognerebbe bere con la testa e non con la gola. Buona settimana a tutti da Davide Paolini.